Ciao Gianni, vabbè. Scusa, stavo spegnendo il telefono che stava parlando da solo. Cosa già? Ho detto che stavo spegnendo il telefono che stava parlando da solo, ero su Tiki Tuki. Certo, addirittura. E muori troppo in fretta, non si capisce cosa dici tu. Ho detto addirittura, parlavo da solo. Perché non lasciate aperto il video, capito? Non lasciate aperto e... se non ritorni su TikTok e lo chiudi con la X, non lo escludi, capito? Ai, ai, lui ha fatto la doccia poco fa, ma la doccia calda, Gianni, ci voleva, calda, tiepida, ma ti rilassa. Già ti rilassa, sì, ma sei uscito tu? No, perché stavo aspettando i muratori che devono venire a fare forse tutto il bagno nuovo a casa della mamma, oppure avete il piatto doccia. Ma lo state facendo voi o ve lo farà al 110%? Un comune o un baga. Ah, va bene allora, un po' di casino ci sarà, ma almeno te lo fanno nuovo pure. Perché se la futti già, già state vedendo un bagno nuovo. Ti fanno un po' di macello i muratori in casa, già si sa. Già, hanno fatto casino per fare la volta. Il pezzo della volta che ne è caduto, l'intonaco, da, non la volta, l'intonaco. Se dico volta, ne cade la volta, ne cade tutto quello che c'è, tavelle e quant'altro. L'intonaco. Sì, vabbè, già fatto, ma che invece, mi sembra che su mani va 30 anni. Questo è un caso di fisica. Sto mettendo mio padre un tatuaggio, stanno uscendo già le crosticine. Ti lascia la palata. E la bempattano già. Cosa ti stavo dicendo? Ma vi fanno anche sanitari? Non lo so, questo sì, sanitari sicuramente sì. Non lo so, adesso vedono e valutano un po' dai, la situazione. Speriamo bene. Se no, aspetta un attimino che c'è Marina che mi sta mandando dei messaggi, siccome gli ho detto il coso del, come si dice, del comune, sono molti muratori, il muratore che lo conosco, è l'idraulico. Ma questi lavori che stanno facendo nelle case del Canada, cosa sono? Quelle del 110% oppure è proprio il comune che li sta facendo? Aspetta due secondi già, ti rispondo subito. No già, non c'entra niente il 110%, il 110%, quello lì serve solo per fare la commentazione con i pannelli di polistirolo. No, con il 110% ti cambiano le serrande, ti cambiano tutto, le finestre, le porte, se c'è il portone ti cambiano anche il portone, fanno tutto con il 110%. Sì, ma quello è una casa di proprietà, no a chi è in affitto, a chi ha la casa comunale. E quindi il comune che ci sta pensando, va bene, interessante che ripristino un po', dai. Sì, il comune ci sta pensando, ma la sapiglia, per carità, per carità. Ci sono i brigati, dice non ci sono soldi per fare questi lavori. Un giardino, poverina. Vabbè, Antonio l'hai sentito, vabbè, a Pierpaolo l'hanno cremato, presumo l'abbiamo cremato, dopo non lo so. Non mi ricordo se me l'ha detto, eravamo assieme sabato. Con chi? Con Antonio. Ah, ma tu sei andato qui al funerale? Certo, non c'era poca gente, quasi nessuno c'era. E io non ci ho potuto venire perché abbiamo fatto il ricovero e ho finito tardi e poi quando ho finito l'ho crepato, mi hanno fatto fare tutte le razze, elettrocardiogramma, mi hanno fatto i prelievi di sangue, tutta la mattina c'ero lì. Immagino. Quando ti operano? A fine ottobre. Poi non ho troppo di convalescenza, non puoi guidare la macchina. No, non sto guidando più. Come già? Che non sto guidando, già l'hai visto il giorno che siamo andati insieme e ho avuto difficoltà anche a andare. Mi sono reso conto che era una cosa un po' pericolosa. Come fai a spostarti già? Non mi sono spostato da una parte, non mi sono spostato da nessuna parte. Poi adesso quando devo andare all'ospedale a ricoverarmi, chiamo l'ambulanza e mi faccio portare. E dico, se devi andare a farti la spesa, come fai? Non mi stavo un po' guidare. E già ci pensa, c'è Marco, mio figlio, già ci c'è il negozio vicino a casa, capito? E poi la stiamo ordinando anche dalla Coop, perché ce la stanno portando a casa. Già, se nel caso se vi ho disponibilità, se hai bisogno, vuoi fare problemi non ce ne sono, fammi sapere. Vabbè, dai, ti farò sapere. Ma tanto guarda, c'è la Coop che te la porta fino a casa. Naturalmente stiamo pagando di più perché dopo la faccio io al discount e risparmio moltissimo. La Coop che si paga un po' di su. Però è una comodità, dai. Vabbè, invece sto dicendo, nel caso se hai bisogno, se hai problemi non ce ne sono disponibile. Solo per sapere, no, non è un problema per me. Vabbè. Mi sto... come si dice? Ma... niente, ne... già, mi sto ritenendo disponibile. Ti ringrazio, se dovesse, ma non penso. Già mi arrangio, va. Se cose la faccio portare anche. Devo andare al centro carne, mi ha comprato un po' di carne per Tyson. Devo andare. Perché io la compro lì e la pago di meno. Già, quando vuoi, no, io proprio non ne ho, già lo so, va bene. Per dare ancora se gusano, almeno che mi tenga un po' sano, oddio, mi dà problemi di salute anche a me. Vabbè, a parte vabbè, dei calcoli alla cistifede, quello lì è un casino, dopo le parla che è quella, lo farò prima o poi. E poi del resto, sembra stocchina. E lo so, secondo te, quando non hai soldi e non hai salute, è peggio andare all'ugio. Ovvio anche quando non hai salute e se hai soldi alla fine, se non ti puoi guarire, se non ti puoi curare, ma che te lo fai? Casino. E Mario, grazie a Dio, già mi sto curando, non c'è problema. Sono andato subito a farmi vedere, ho fatto tutte le visite possibili e immaginabili. No, la verità, anche sono andato anche a pagamento perché doveva essere, se no avrei dovuto aspettare, andare a Oristano, questo e quell'altro. E una cosa, come si chiama? La risonanza magnetica, ho avuto la fortuna, ho chiamato al policlinico e mi hanno detto per domani vi si va bene, sì, c'è un posto per domani, allora via, l'ho fatta subito. E ho chiamato l'ASL poco prima e poi l'ho disdetta perché mi volevo mandare o a Aristano oppure a Cagliari. C'è quello gratuito e per la SL sì, però cioè, vado a Oristano a Cagliari, là mi conviene farla qua a pagamento e pago la stessa cosa, là, più o meno tra mangiare, pagare benzina e tutto, alla fine ti conviene farla qua a pagamento. Ah beh, senza dubbio, senza dubbio. Senta, mi stavo chiamando già, perdonami. E io intanto devo mettermi il pantalone del pigiama che c'ho tutti. Mission Kit. Beh già. Lucretta, ci sì. Cosa vuoi da Luca? C'era qualcuno che ti cercava stasera, ciao Natale. Ciao già, però quell'eco non stai uscendo bene con quell'eco, ti sovramodula le parole. Guarda se va bene adesso. Ho detto, ti stavano cercando stasera, forse era Luca, Luca Flipper. Boh, non lo so, io ho acceso appena una decina di minuti fa. Hai notte, ha cercato prima, dai. Ha chiamato Natalie, sì, Natalie, dovrebbe essere, non c'è a casa. No, ero addormentato. Poi, un casino, da dolore, so, quello che la posso dire. Sì, lui era. Sorvoliamo i dolori, sorvoliamo. Ehi, ma è una via crucis, mi da lì. È una via crucis questa. Non dirlo a me che ce li ho anche io i dolori. Sono a mal di schiena, tutto. Mamma mia. Lasciamo perdere, sorvoliamo che è meglio. Ehi, ancora c'è il televisore acceso, si sente un bel televisore. E il televisore c'è mia moglie che si sta ascoltando una trasmissione. E cosa dici su Danilo? Natalì. Già, è un macello questo televisore. Mi viene male ascoltare anche a te. Ma scusa, cuffie non ne hai? ti metti un paio di cuffie e ti ascolti, e ascolti me e non ascolti l'esterno. Perché sono già messe male quelle cuffie che ho, se no già me le avrei messe. Ma perché non... E poi sono troppo pesanti quelle che ho io, devo buscare un paio di cuffie leggere. Ma adesso mezzo, non ce n'è più quella che ci abbiamo comprato insieme. Ehi, quelle lì, ma sono pesanti. Ah, sono leggere, le Sennheiser, cazzo, c'hanno lo scheletro solo. Io ne ho un altro paio come canto che sono molto più pesanti. Non sono pesanti, la talità. Quelle sono cuffie vere, non sono cagattine. E poi c'ho lo spinotto grande, quello piccolo non ce l'ho, e come faccio il macello? Ci vorrebbe un adattatore per mettere dietro questo qui. Sì, certo, io me l'avevo comprato da piccola a grande e poi da grande a piccolo. E così lo potevi usare in tutti i modi. Elegante. Sì, infatti, dove lo metti, lo puoi usare. Ma di solito io lo usavo sul Galaxy, capito? Quindi c'è l'attacco grande e lo metto negli apparati base, quindi c'è tutti l'attacco grande. Sì, ne sto vedendo uno su Facebook, in questo momento proprio, il Galaxy. Ma non la prendo più, non mi interessa, tanto c'è gli apparecchi, io già me ne posso. Mi dispiace, io ho perso quello là perché mi piace il Galaxy, ma non ne spendo altri di soldi. Lo so. Era semi aperta, era tanto così aperta. Aspetta, io mi devo comprare una bici Gadri by Foot. Mi sta rompendo la schiena questa qui. Qua deve essere per fare le live. Di quelle comode, no, chi ci ha mai facendo la china? Ogni tanto me ne alzo e ho mi curico, perché no, non puoi stare seduto in questa sedia, ti uccide la schiena. Io a Marco gliel'ho comprata quella per fare le like, e gliel'ho comprata la... come si chiama? A modo conveniente. E che sedia gli hai comprato? Cosa? Come gliel'hai comprata la sedia? Quella per fare le live, le live a coso sul computer, quelle tutte imbottite che c'hanno la forma della schiena, c'hanno tutte belle imbottite. Così me la devo comprare io, però ho paura che non ci sta qua. Bisogna che cambio il tavolo, perché questo ce lo devo buttare. Bisogna che mi comprare già un tavolo. Me lo compro quadrato, perché questo non serve a nulla. Pucci, che tavolo brutto. Magari più piccolo, perché magari con l'ingombra di più. Infatti questo ingombra. Oppure questo non ci stanno quella, una sedia di quelle comode. Però con Luca in realtà rispondo al telefono, non è più rientrato. Luca ci sì, niente da fare. Andare. E là sempre andando, Natali stai. Per forza, glielo credo. Che sto andando. Ogni volta c'è lezione, devo andare per forza. Non hai perso una lezione, così. Tu pesi. Anzi, sto studiando anche per conto mio. Fai bene, così ti tieni più allenato. Se ci sono i libri, ma magari sono cose in più che non ti chiedono nemmeno. È qualcosa di valore. Invece qual era l'obiettivo? L'eredità. Il gusto di buone domande. È molto vasto il programma, per quello che è difficile, perché è molto vasto, tante cose bisogna che uno sappia. E tu come memoria ne hai a memorizzare ciò che studi? Lo memorizzi subito? Sì, già ne ho memoria in quanto a quello, almeno a quello. C'è gente che memoria proprio non ha. Perché lo sai cos'è? Da tanti anni che abbiamo mollato la scuola e il cervello non è allenato, capito, a studiare. Bisogna rimettersi. Infatti, ma tutto un po' è così, a studiare tutte queste cose. E come ti che si prende una laurea? Troppa cosa c'è da sapere. Vabbè. Ma sì, uno è pronto, non c'è ancora temere, no. Sì, che lo so. Però uno bisogna che si impegni a studiare, se no. La vita legata mani e piedi con dei segni. No, combini nulla. Si pensa che sia tante cose ci sono, c'è questo regolamento che è lungo, mamma mia, tutte le cose che ci sono solo nelle normative. Poi tutta la roba di elettronica, le antenne, la propagazione, di tutto devi sapere. Se mi avevano fatto domande di informatica la volta che sono andato, figurati, di telefonia, eppure me le hanno fatte. Se no saresti rimasto cimbice, se non avresti avuto da studiare, è normale che lì devi essere pronto per passare. Ma cosa c'entrava l'informatica? Eppure c'entra, perché ci sono anche roba di informatica adesso, satelliti, già ce n'è poco di roba. Beh, tutto collegato, l'informatica non la usi con la radio amatoriale per vedere dove c'è propagazione, tutte queste robe qua. Usi il computer, no? No, ma ci sono anche dei sistemi di trasmissione digitali addirittura, e quindi lo usi per forza. Se devi usare quegli attrecoli, devi per forza usare il computer, no? Meno male, ho fatto un affare, ma ho beccato un portatile per pochi soldi, c'aveva la tastiera che non funzionava, me l'ho fatta arrivare nuova la tastiera, adesso il computer è nuovo. Ah, te l'ho preso nuovo, ma portatile. Un portatile, così ne ho due. Il portatile già serve quando devi andare fuori, che funziona la batteria logicamente. È nuovo quello che ho io. C'era la tastiera, c'era un tasto incastrato e non funzionava, e allora me l'ho fatta arrivare nuova. E l'hai cambiata tu? No, me l'ha cambiata un amico, che lui la sapeva come fare. Mi ha messo la tastiera nuova, adesso è nuovo. E vabbè. Sì, anche a me me l'ha cambiata in quello di Elena. Ti mancava un tasto, si era rotto un tasto, e lui ce l'aveva uno uguale di computer, mi ha detto: già, se vuoi gli cambio la tastiera, gli metto quello di questo computer che c'avevo per pezzi. Va la tastiera, me l'ha cambiata, e va la grazie. E ti credo, e me l'ho tenuta la tastiera vecchia, cosa che serva qualche tasto, qualche cosa, capito? Quello già serve sempre, quello di Elena non so come è successo nel viaggio, la cosa abbiamo preso un tasto e niente, l'abbiamo cambiato. Già, non sei uscito del radio. Perché l'ho schiacciato male sicuramente, guarda adesso. No, adesso già stai uscendo bene. Perché prima anche se ne stava a fermo questo tasto, adesso non si blocca più. Non funziona più, non so perché ci sia rotto qualche cosa. Prima restava, lo mettivi di lato e restava a fermo, si bloccava. Io ho capito. L'MB+4, cioè. No. Questo qua non è l'MB+4, questo è il Master Plus. Perché anche questo blocca di lato. Già lo so, ne ho avuto diversi MB+4, MB+5, lo so che si blocca. Ma questo è un tasto, è morbido, è molto meno duro di quello dell'MB+4. Ma qua posso mettere questo, posso mettere il Starman, Super Side Kick. Signore. Mettere le cuffie se dà fatto il televisore, tipo nelle cuffie da tali. Io a volte quando mi dà fastidio cantando metto le cuffie e mi regolo il volume. Non posso mettere, c'ho lo spinotto che non va bene. cosa, uno spilotto già si trova, cosa ci vuole, trova uno spilotto, ce l'ha anche Fusaro, vai del Wiki. Non ne ho di quegli spinotti piccoli, perché ci vuole uno spinotto piccolo per poter usare, o una lasartone per poter usare quelle cucchiaie là, perché c'è già lo spinotto grande per quegli altri. Ci vuole lo spinotto da stereo a mono, una striscia solo c'ha attorno nel jack, invece quello stereo ne ha due, tu devi fare da stereo a mono piccolo. Lo so. Se no te li sono una cuffia. Oppure mi busco un paio di cuffie di quelle leggere e le attacco direttamente lì, così è sempre fissa la cuffia. Perché a spostarlo qua, cazzo, è un macello ogni volta lo devi spostare con l'apparecchio. Perché il televisore si sente un bel adesso, o è che il microfono che amplifica come? Ho detto che il televisore si sente molto, è il microfono che lo amplifica troppo. Hai capito la tazza? Cosa hai detto? Che non c'era lì, mi stava dando un paio di cuffie di quelle di computer, non ci viene a nulla. Cosa ti stavo dicendo? Ho detto sicuramente il microfono che l'amplifica, non è tanto il fatto che sia alto il volume del televisore, ma è il microfono tuo che amplifica. Sì, già lo so, se è basso il televisore, però è lei che c'ha la voce, quando parla lì non mi fa capire quello che dice, che dici tu, perché c'ha la voce così alta che mamma mia. Sì, è stridula. E allora? No, sto aspettando che se ne vada a portare il cane, almeno posso studiare in pace. È andato, vedi. Avanti, la vuoi mandare? No, deve andare a portare il cane, deve andare. Così spengo il televisore e tutto, almeno c'è silenzio. Abbiamo parlato di questa... Ma tu non ci stai calando a portarla? No, non sto più uscendo di casa io. Solo quando devo andare alla sezione lì. Ma chi è per quello che stai diventando? Cosa esco a fare intanto? Se esco mi tocca spostare la macchina e perdo il parcheggio. Ma tu dovresti risolvere questo problema con un motorino, magari a seconda mano costano poco. Ci sono a seconda mano che costano poco, un motorino, e risolvi il problema, se non ti rubulani da anch'io. Cosa rubulani? Ma io non sarei riuscito via. Se li metto una catena anticesuie, come fanno a rubare? Poi lo metto sotto la finestra, se si avvicina a qualcuno il cane abbaia immediatamente, e io dalla finestra stessa lo faccio secco. Cecchino! Sì, lasciami il bongo dal guacone, apro il guacone, se no ti nandi di diru. Allora, nel mio palazzo prima abitava uno che era pazzo, cazzo, pazzo da legare, era un cacciatore, e avevano rubato la moto al figlio, e una domenica hanno suonato il campanello ripetutamente, loro erano ancora con i cacci, e gli hanno detto, se vuoi la moto mi devi portare 150 euro giù. E mi ha detto, ma tu la moto ce l'hai? Sì, allora aspetta che ti sto portando i soldi, ho bisogno di un fusile. E fare due fusili l'ha fatti fuggire tutti i gatti. Ah no. E gli ha detto, adesso la lascio aperta la moto, se la tocchi di nuovo, dove ti trovo ti tiro. E infatti, così bisogna fare lei, sai niente. E parati, il canottiere è buttato dove? Con un fusile in mano. Ma vai da un po'. Sì. Veloce il tipo. Quello era pazzo, pazzo da legare. Uia, c'è bisogno di una cosa di bocco. Cazzo, non mi manco un riduttore, perché io lo uso per scopi sportivi. Cazzo, dovremmo così gasciucci 30 balla, poi ha voglia di fuochi artificiali. Vabbè, è un modo di dire l'attualità, ce lo sappiamo che tu lo fai per dire, dai, da voi non lo fai. Se uno anda pure a me a moto, anzi non prendo il fucile, no, con la pistola direttamente, che mi viene più bene, è poco ingombrante, la so usare bene. La Glock e anche l'altra. Perché la beretta schifo ti faccio, mi sparo con la beretta, cosa ti credi che non la ammazzo ugualmente? Ma la bolletta l'ha usata a sparare lì al campo? Sì, l'ho usata una volta perché ne avevo vergogna che era troppo piccola. Tutti ci avevano i pistoloni e mi ha detto l'amico lì, portala che ti faccio vedere il danno che fa. E aprirlo quasi a danno perché c'ha la canna da guerra quella lì, cazzo, è potente ma la sorte. Sembra così perché è piccolina, no? Però con una potenza. Quella è quella che c'ha in campagna, no? Quella lì è più vecchia di me. Fai di rubo. Tu lascia quella là, l'hai presa. Ehi, me l'aveva data un rappresentante che conoscevo io, quella lì. Perché lì era guardia venatoria di quelli volontari, no? E c'aveva quella la pistola. Ma e cosa aveva sparato? 50 colpi quando me l'ha dato, non di più. È sempre in uva nuva. E poi basta trattarle bene, pulirle, olearle e farle. Naturalmente devi togliere la polvere da sparo, dopo che spari, pulirle. Io sempre, ogni volta che andavo al poligono, quando venivo me la pulivo sempre. Perché sennò poi la polvere da sparo le inceppa, capito? Vabbè. Adesso sei da un bel che non ci vai, vero? Due o tre anni, so. Allora Franco, il meccanico mi ha detto che sta sempre andando. Sono andato a fare il taglio della macchina, stavo a parlare, l'ho chiesto, sì, io sto sempre andando, sì. E io è perché non posso camminare, perché questo, perché quello, bisogna venire gana. Se non sto più uscendo di casa già, sono sempre chiuso qua in prigione. Scommetto che l'ultima volta che siamo andati è la volta che siamo andati con la Jeep. Io non mi rammento. Non me lo ricordo l'ultima volta che sono andato. È che non stavo bene, per quello che non ci sono più andato. Da quando mi sono ammalato praticamente non stavo più andato. Cazzo, sono arrivato a pesare 52 kg. Da chi sa male a Dio. Più c'avevo la gamba messa male. Ma l'hanno di assaccare, la salute è sempre così, Non ti lascia in pace, cazzo. Quando vai in pensione specialmente, non ti lascia più in pace. Io quando ero ammalato anche a lavorare andavo. Quando entravo al comune, maradu maradu andavo rumo a testa a travagliare. Vabbè. E qualche volta sono andato anch'io con la febbre, adesso non me la sto più beccando la febbre, ma prima me la beccavo, capito? E anche con la febbre andavo a lavorare, mi sentivo male, raffreddato, tutto quanto, però andavo lo stesso. Sì, infatti, altra generazione, lascia, si fanno poco poco una lineetta, non vanno a travagliare, subito in malattia si bonni. Facendo vedere, si vede anche... Io cazzo pure avrebbe andato, cura nevi, non mi firmava nulla a me. Questo è poco ma sicuro. La mia suocera c'era quella badante che lavorava, che praticamente per un mal di testa non è andata al lavoro. Ha detto che lei aveva mal di testa e che non ci andava. Figura. Non è in quella stanza, ma poi immagina... Che mal di testa te lo puoi far passare con una pastiglia, Infatti un antidolorifico, che cosa che vuoi abbassare, ma che gamba. Ma altro che mal di testa avevo io quando andavo. Anche con la gamba così, come ce l'ho adesso, mi sembra che sono andato a lavorare. E mania, ed io travagliavo, noi ero uno di chi si imboscava. E male facevo a lavorare, dovevo imboscarmi come facevano gli altri. Sentivo un boato tremendo. Era lui, le commesse, andavano in bagno e stavano al cellulare chattando e facendo, le vedevo in bagno chattando o parlando al telefono. Se ne stavano anche mezz'ora, lui si stava nudo. Figurati. Da noi veniva uno, cazzo, che era entrato con me, no? Se ne andava al circolo a imbriagarsi e lui già metteva al posto suo, chiamava a me, perché quello gli diceva che era impegnato, capito? E impegnato con la dazza era. ed io mi faccio in Romeo e Rudy Lastri ed è successo parecchi volti. Basta capire, lo sai, ci vuole la giustizia, è uguale per tutti, non è che uno deve travagliare a ballarsi. Ma anche da noi c'erano molti sciacquini, capito, che facevano, si fermavano a parlare con la gente, se la prendevano con calma, e tu esistendo, gli che ti dovevano preparare la roba, poi regalare i negozi. Allo gioco, a me lo dico. Perché? Cazzo, che servizio, addirittura chi non accompagnava lo circolo a B, si sono rifiutati di uscire con me, perché li aveva messi a uscire con me quelli fissi che c'erano, chi si avevano vinto il concorso ed erano i fissi in Chivi, chi se non li travagliava ne manca a balla. Una volta gli ha smerdati il geometra, perché a lui, quando è andato all'ufficio tecnico, avevano smerdato a lui, dice che se non li chiamavano almeno 3 o 4 volte non ci andavano a fargli il lavoro che gli dovevano fare. Cazzo. E lì si sono contentati, dici, con una doiota senza vetri, senza nulla, al freddo, perché io non li accompagnavo al circolo a bere, mi ha delle immagini, perché il giorno tra mi aveva minacciato, mi non li accompagno al circolo se non me la piglio con lei. Ma poi siccome tu non devi dire loro che non bevevi, allora non ti volevano escludere perché non bevevi come loro. Ma io non bevevo, no. A me come ti... So che arrivato un giorno e tra mesi mi ha detto... Ma lei a beve, cioè a me, anche tutti erano imbriagoni, no? No, io sono astemio geometra. Non bevo, a me se mi vede dentro il bar vuol dire che mi sto pigliando il caffè, la giudizio. Io mi bevo solo caffè, meglio così. A chi non ne buttava né casa né lana di Ghidi. Ci sono rifiutati, la macchina tutta rotta, tutta sporca, piena di roba, cazzo. Finza ruggimento attaccato, va via, nel rugoso, nel rubianale da Riddu. Una doiota di cui vedi tutti i fasciati, cazzo. A Rufreddu si sono contentati, dici tanto che di freddo non avviani, a che era nive di benzinati. E poi si sa che in comune uno lavora e c'è tu guarda, no? Allora, ed io devo abbassare, una volta mi sono beccato un cazziettone dal geometra di quello là che si imboscava al circolo a bere, e quello non era fisso, quello era entrato con me, però si imboscava e gli diceva che era impegnato, chiami a me lì, che già glielo fa, le va sì, chi gli dirà, no? Una volta ero in fila all'ecocentro che dovevo scaricare, col camioncino dovevo scaricare la roba che c'avevo, ed ero in fila perché c'era gente prima di me che doveva scaricare. E me l'ha giudito chi ci aveva rubato di più tardi, a chi era impegnato, che ero all'ecocentro, no? Cazzo, quando arrivo lì, cazzo, non me ne vuole mai fare, ma cosa? Guardi, se lei guarda, io gliel'ho fatto quello che gli dovevo fare, solo che ero in fila, gliel'ho detto che ero in fila, cosa facciamo sopra le macchine dei colleghi che stavano scaricando prima di me? C'erano prima di me, dovevano scaricare loro. Quando ho scaricato sono andato e gliel'ho fatto, e intanto mi ha fatto un gassettone, ti immagini, il geometra di Guglione, noi eravamo anche un geometra mio. Uno di quei due fratelli che sappiamo noi era il geometra. Nick e Nock, proprio Edu. Qui c'è uno sgombero in atto. Ma gli ho fatto un gassettone a chi dici, chi quando mi chiamava, e cosa cazzo da parte che non si riuscì a mettere a me, sicuro io gli dicevo di no e non ne rifazio. Ma cosa ero impegnato, vedi che dava gli barugio a mettere a me io, se volevo, no? E invece io gentilmente gliel'ho fatto e questo mi ha fatto pure il cassettone. Agito, come ti mi chiami, io sono sempre impegnato da oggi. Io già li conosco tutti e due, uno mi parlava dell'ospedale. Ma quelli li hanno tutti silurati, adesso è tutto cambiato. Hanno silurato a tutti, perché adesso non ne prendono di quelli come entravo io, no? Adesso ci sono gli spazzini che hanno l'ecocentro, c'hanno tutto loro. Vabbè, ma il giovane non penso che lo si lui. È stato lui. Chi fissi, sarà contratto i amichissimi. Tutti i silurati, burro riduttori, tutti i silurati rami. Ah, non era l'ufficio, io pensavo fosse l'ufficio, il geometra e alcuni che fossero uffici. No, no, a contratto erano quelli. Non erano uffici. Quegli uffici erano l'ufficio tecnico, tutti. Chi c'erano i stagionali, entravano avevano il contratto magari per un anno e dopo magari glielo rinnovavano, capito? Però fissi non erano quelli, quelli li hanno tutti silurati, anche gli agronomi, silurati a tutti. Adesso non ce n'è più per derubare, vero? L'ultima volta io non sono entrato perché ci voleva il patentino della gru e io non ce l'avevo, c'avevo la patente grande ma non avevo il patentino per usare la gru e chi ne aveva mai usato gru? Però se non avevi chiesto non ti pigliavano e allora non ha giovato manco la domanda io. A che figuria il patentino baragru? Perché io già sono andato a pigliarmelo, solo che i posti erano contatti e non mi avevano preso a fare il corso, se no l'avrei preso anche quel patentino lì. Magari avendolo da prima avresti passato. Hai fatto una domanda di rientrato, no? Come si entrava liguriano tutti col battentino barra gru e da voi di gru non ne stavano mai. A chi va via gli si camioncini minori con la gru sopra. Che io poi l'ho portato senza patentino quello lì, con la gru. Però gru non ne usavano. Ecco, a me quando era acceso avevano chiesto per il 118 all'ospedale fissi, prendevano praticamente il più anziano di ogni associazione che avesse la patente C. Io ero il più anziano ma non c'avevo la patente C, quindi hanno preso l'altro, capito? No, la D volevano, non la C. Per quella cosa, già lo sapevo anche io. Infatti al posto mio è entrato quello là, perché io sono andato a fare la domanda che uno di quelli dell'ospedale mi aveva fatto la spia e mi aveva detto mica devono prendere una persona da noi perché uno si è ammalato e se n'è andato. Ha già fatto la domanda io, Gattu, e praticamente qualcuno aveva avuto gli incontri Angelino, già lo sappiamo chi è, con quell'altro dottore, e hanno fatto entrare a lui prima. E Angelino guidava anche il camion dell'automotore del comune. Era Marrufò, a Raffoni era, si attaccava a tutto Angelino. Io ho lasciato perdere perché si doveva sposare, che c'aveva la ragazza incinta e tutto. Mi ne sono affuttito, però per dire, cazzo, c'avevo migliore voto del suo nel coso, in quel diploma avevamo preso all'ospedale. Cazzo, lui non c'aveva la D pubblica perché volevano la D pubblica loro. Io ce l'avevo e lui c'aveva la D privata, non aveva il caso. Ma eppure entra a dedo. Sì, ma l'aveva presa dopo, mi pare. Però per fare la domanda ci voleva di pubblica, me lo ricordo. E non sono andato io a fare la domanda. Se ti vedi, cazzo, quando sono andato a fare la domanda mi rampavano il tappeto rugio, come ti hanno visto il curriculum e tutto. Vabbè. Ma tanto non li pagano più di tanto, gli danno 1200 euro, uno stipendio da fare. Ma per dire, a me quel posto mi serviva, eppure cazzo mi hanno silurato, perché doveva entrare quello là, che aveva più incozzi di me, e con tutto che ti faceva il burro che era Monica, che era un ladro, cazzo, da un DVD hanno furava. Ma che suo signor Angelo mi l'ha fatto, il burro che era Monica l'ha fatto. Se una voce a casa ha dovuto bugnare a me a fare i viaggi privati e a lui l'ha mandato all'ospedale perché cazzo ci teneva i soldi, ci teneva dei viaggi, non lo sai. Eppure quella persona lì che l'ho minato faceva regali a tutti, alle ragazze che ha comprato il cellulare, perché c'erano ragazze che c'erano da lui prima, poi sono andate lì. E a chi si ripuria a montà? No, li faceva regali per fare servizio, capito? Alcuni li pagava, queste ragazzine li faceva regali. E qualcuno già ce l'ha anche fatta, non ti preoccupare, con la scusa dei regali. Boh, questo non lo so, Nazarino, io non sono mai stato lì, niente, comunque tu ci sei stato, vero, lì a San Corso Santo? Eia! Non mi vuole la calcione che c'è la solo che me ne sono andato a chi si uno di brumetti dentro di assento, compreso, io sono con una persona abrizzisa. Cazzo, so che andavo a pigliarmi le dinai, mi doveva dare, ma poi sono in mano un assegno che mamma mia. Là lì mi sono incazzato e me ne sono andato, avanti lo fai tu. Ehi, Gianfranco non c'è più con Raduzzo, è entrato alla Croce Rossa a lavorare, ha vinto il concorso. E la meglio cosa è poter fare. Ma una volta mi ha visto in Chivita a Vasco, mi ha pagato pure a biglietto. Però non bisogna cambiare andare qui. La paga a me come paga, giudizio, tra me e me. Cazzo, perché se sono volontario non voglio manco 5 lire. Però se tu mi dici mi paghi, se mi prometti 100 mi devi dare, non 1000. No, chiaramente ci sono. A che tu fai così? Ti prometti a bere non da via. Ma loro si dicono volontari, ma non lo sono. Non sono volontari, ti mettono la cifra da pagare. Volontari ancora c'è rimasta la misericordia, che io l'ho presa, sono persone molto preparate, io me ne sono accorto da come lavorano, e molto gentili soprattutto, e sanno fare il loro lavoro. E non ti chiedono cifra fissa, ti chiedono un'offerta. Già lo so. Però Ridu è filus, quella cosa che va alla cooperativa, cazzo, tu manda sempre le rina. Quello da chi si chiedono i volontari, no? Secondo il Gabusuio. Cazzo, se sono volontario, io già l'ho fatto il volontario, però non prendevo manco 5 lire quando ero volontario. E io no, Natalì. Addirittura c'erano persone che dicevano questi qui sono per l'ambulanza e questi sono per voi, io mettevo tutto per l'ambulanza, questo te lo giuro. C'era gente che diceva io non sto lavorando e mi riprendo, fa quello che vuoi, la parte mia io la metto per l'ambulanza, per comprare la roba che ci serve, medicinali, garze e via dicendo. È giusto che sia così, se uno non sta lavorando se li danno a lui è giusto anche che se li prenda i soldi. Sei volontario, quelli che li danno per lui, quelli dell'ambulanza li deve dare all'ambulanza, invece Angelino fa zia, chissà a te, chissà a me, e come dovremmo impazzire. Una volta siamo andati a Erguri a portare, vabbè già lo sai, no, ti chiamano di notte, sono andati a Erguri e ci hanno riempito di formaggio e salsicce, che è poco di una vianità. E infatti, dire, cazzo, se uno è volontario non deve pretendere niente, uno se non è volontario allora è un altro conto. Faceva parte del cast, per esempio dove ci siamo noi c'è Gianni Vincis, quello è l'unico che è pagato lì. Perché lui è pagato. Là ci sono tutti volontari. Ma tu perché servizio ambulanza stai facendo? No, se no mi muovo da qua, non te l'ho detto. Come fai a fare servizio ambulanza se hai la gamba in quelle condizioni come ce l'ho io? L'avrei anche fatto se mi ci adusano. Roberto è entrato alla misericordia, Roberto sì. No, io non ne sto facendo, e fanno anche i corsi da noi, tutto. Beh, i corsi li avevo fatti anche io, solo che adesso dovrei rinnovare tutto quanto perché scadono ogni 2 anni, mi pare. Avrei dovuto rinnovare tutto, poi stanno sempre facendo corsi nuovi, stanno cambiando molte cose, capito? Adesso oramai sono fuori. Infatti. Da noi c'hanno una sede grande dove facciamo lezioni noi, c'è anche una macchina, lì il telaio di una macchina là, per togliere la gente fuori, capito? Fanno i corsi lì di LSD, tutto quanto, traumatica, tutto va. E quello è il corso di trauma, come togliere la gente alla macchina, il trauma, mettere il ragno, eccetera, la spinale. E tutto quanto fanno, già lo so. Se una volta a cazzo mi hanno telefonato a me perché c'era il 118 che non sapeva come metterlo nella spinale, l'avevano già messo nella barella cucchiaio, me l'avevano sceso, no, questo tipo, però lo volevano nella spinale, lo volevano. Facciamo da me, signor Angelo, Natali, vai a dare una mano a quelli del 118 che sono in tale posto, accendi la sirena. Attendo la sirena e so candaddu, so carabito in chivi, no. E dirani con marando in chivi in Antaravarella, a cucchiaio, no? Cazzo, ci hanno detto, ebbè, che problema è? Dammi la spinale, subito, salite il malato, cazzo, già giù poi c'è la spinale, in Antaravarella, adesso scendete e togliete lì la cosa, la barella a cucchiaio, io sbrigatevi, cazzo, sai Uria, l'hanno buttato la spinale, hanno imbragato e se l'hanno buttato, e io da ridere, a chi doveva un altro servizio io, perché a me me ne aveva tolto, perché Angelo si rubava i soldi, capito? E cazzo, allora aveva buttato a me a fare i viaggi privati, a chi ordinava vi da zio a Edu, invece chi tu cazzo ci ridini a Edu, poi rivasi a pagare di più per guadagnare più Edu, no? Cazzo, e poi che è un fiume. Invece l'altro CV non lo potevi fare perché dovevo fare il foglio in duplice coppia, una della rabbia a loro e una rimaneva a te, capito? Poi gli mandavamo anche i ringraziamenti per la cifra, grazie per aver dato la cifra di euro, e noi abbiamo sgamato anche lì gente che rubava, perché noi abbiamo uscito 50.000 lire e quella telefonata, forse c'è stato un errore, ma io gli ho dato 100, non 50, e allora abbiamo capito chi si intascava i soldi, capito? Allora anche a noi arrivavano i ringraziamenti quando gli facevamo la ricevuta e tutto, già lo so come funziona, e infatti la giurina era ricevuta al signor Angelo, e io invece si rimbucciava a carava ridina e poi girava un fiumi, se poteva neanche la ricevuta ti la rilasciava e poi che era l'onfio, l'ha fatto Rubu che era Munin che l'ha fatto intrappolare dentro di tutto, l'ha fatto entrare perché era il suo pupillo, la verità gli faceva fare tutto quello che voleva fare, e lì era uno dei, ce n'erano due, lui e Roberto Bellinzi c'erano, diciamo, i cappuccia lì. E perché cazzo erano della cooperativa loro, perché lì dentro c'è anche la cooperativa, l'associazione è a parte, una è associazione e l'altra è la cooperativa. Sì, ma il volontariato lì non le fanno, è tutta a scopo di lucro, non me lo dicano loro, non hanno mai fatto volontariato, hanno sempre fatto pagare, mi deve dare 40 euro per andare all'ospedale. E già lo facevano il volontariato quando c'ero io, perché io sono entrato volontario, e già lo facevano il volontariato, certo se c'era da fare chilometri ti chiedevano il tanto, no? Però se era per portarlo all'ospedale, era offerta, capito? Invece la Croce Verde quando chiamavi per un'urgenza ti diceva i soldi ce li ha, perché noi paghiamo, facciamo pagare anche per le urgenze, cazzo, cioè si chiedeva i soldi anche per l'urgenza, e lei, per forza era una ditta, quella lì era una ditta, aspetta un attimo già. Sì, Io ero entrato volontario, infatti quando ero volontario, che non avevo bisogno di soldi perché grazie a Dio già lavoravo, andavo a tempo perso lì ed ero volontario, io sono entrato quando ero volontario. Poi quando mi dovevi abbagare allora mi dovevi abbagare, infatti dalla volta non ne ho più fatto volontario, sempre bagato. No, io servizio ambulanza pagato non ne ho mai fatto, sono stato all'Avis, alla Croce Blu tanti anni, all'Avis per poco tempo e poi sono andato direttamente al CISO, ci sono stato 14 anni, ma non ho mai visto una lira, addirittura anche quando abbiamo avuto l'incidente che li hanno pagati, a me non mi hanno dato nulla, capito? Perché ho detto che io stavo lavorando e quindi cosa c'entrava, stavo lavorando male, mi sono occupato male, mi sono dovuto aspettare al lavoro e l'INPS ha voluto praticamente i soldi indietro perché praticamente hanno dato il 50% di colpa e quello lì non ha voluto pagare, gli hanno voluti da me i soldi, capito? Quelli che mi avevano dato della malattia me li hanno voluti indietro. Infatti, non conviene no a fare il volontario. Io lo stesso alla Croce Blu ero volontario, al Soccorso Sardo lo stesso ero volontario. Poi invece erano cambiate le cose e sono entrato per i soldi e quando mi tu mi dovevi abbagare, se no non eri radiosi video. Io da Ciso me ne sono andato da quell'incidente lì, quello che abbiamo avuto via Mendola, che abbiamo capottato, stava guidando Danino e io ero dietro che stavo facendo un massaggio cardiaco e praticamente ci ha preso questa macchina, è uscita dalla fila delle macchine che si sono fermate, è uscita da dietro, ci ha preso in pieno, ci ha preso dietro, ci ha sbattuto prima al semaforo e poi l'ambulanza è capottata di lato. Beh, io da quella volta lì non ci sono più andato, mi ha chiamato Manuela che era piccola, mi ha detto papà ma stai tornando che è pronto da mangiare, ho detto sì sì sta arrivando subito, è che papà ha avuto, l'hanno tamponato con l'ambulanza e stanno, gli stiamo dando gli estremi, già viene subito, sono tornato a casa tutto questo male, tutto fasciato, con l'occhio gonfio, tutto messo male, poi la notte sono dovuto tornare all'ospedale perché Marras ci aveva mandato via dicendo che non avevamo nulla, c'avevamo fratture scomposte, fratture non scomposte, microfratture in tutta la tibia, c'avevo ematomi e tutto, e che più ne ha più ne metta, ci volevano ricoverare, Tarina addirittura c'aveva una vertebra che stava staccando, ha fatto la lastra e gli hanno detto si fermi così che spanetta, gli hanno dato subito il collare da mettere, capito? Figurati cavolo, e quello c'aveva la vicembriagone, ci aveva mandato via. Vera Murugisu che questo non lo so io che se non ti ti devono controllare bene. Noi così no. Ma sai cosa faceva quel dottore? Mi chiamava a parte già, ma dovete tornare. Se torni me le porti due bottiglie di birra, passi a campare, me le prendi e poi ti dai su. Le portavo lì alla Romagna e beve. Sta mezzo alcolizzato, se non dire tutto. Qui ci ha detto che non c'avevamo nulla, se tu facci l'altro né niente, no non ci avete niente, dai, potete andare a casa, a casa, c'avevo il polpaccio che sembrava che avessi un crampo fisso, il muscolo bloccato, dolori dell'altro mondo a tutte le parti, cavolo, e poi la notte mi ha chiamato Tanino e mi ha detto già io sono tutta dolore del collo, ma tu come stai? Male, male, allora sto venendo a prenderti mamma, e siamo andati con la madre, ci ha portato all'ospedale e ci hanno trovato tutte queste cose, fatto la lastra, già non credo che gli faceva male, dice, c'ha tante microfratture, non una no, più di una. Figurati, cazzo, bello non va venuta. La tibia, c'ho ancora una vena gonfia che non si è mai gonfiata dal colpo che ha preso, perché ho sbattuto al rubinetto del lavandino, capito? Del lavandino dell'ambulanza, di lato, perché come la stavo massaggiando, ci sono uscito di lato come ha preso il colpo. Cioè io mi ricordo, si aspetta prima la plafoniera, poi si è detto boom, boom, boom, tanto ne ha zocco. E mi hanno trovato svenuto adesso. Figurati, però non avevi nulla, Se l'è embriaco, guida, gli ho grido. sì, ma quell'intervento è partito male dall'inizio, perché ci hanno chiamato i vigili del fuoco, ha detto che praticamente aveva telefonato questa signora che poi si è interrotta la telefonata, non ha fatto in tempo a dire l'indirizzo dove abitava. Chiedete dove abita la donna anziana, se non siamo arrivati noi sfondate la porta, siamo andati lì e invece avevano già avvisato la fida ha aperto la cognata, la nuora, e ha aperto con la chiave, è entrata dentro e lei aveva un ictus, questa signora, era, io l'ho subito riconosciuta dagli occhi perché c'aveva gli occhi viola sotto, e ho detto questa donna è da portare urgentemente all'ospedale. Lei ha detto no, non porta niente, come sarebbe a dire, lei allora metta la firma, mi compili il foglio e mi metta la firma come si sta rifiutando, perché ha un ictus in corso questa donna. Guardi che io parlo con cognizione di causa, sono una dottoressa, e l'ho detto, è la ragione per cui dovrebbe capire che... Allora poi ha telefonato il marito, che a sua volta la dottore anche gli ha detto, sì, portala subito all'ospedale, mamma, falla portare subito, la mira da voce. E quindi noi abbiamo dovuto approfittare un po', capito? Siamo arrivati lì vicino alla polizia dove c'è il Teatro Verdi, lì. E gli ho detto, Tani cammina perché la stiamo perdendo, gli si sono girati gli occhi, ho cominciato a massaggiarla e siamo arrivati lì via Mendola, via l'Italia. Tanino ha rallentato perché lo sentite, ha messo due sirene anche con la fischio, tutte le macchine sono fermate per farci passare, lui è rallentato, poi è ripartito, questa macchina è uscita da dietro la fila delle macchine ed è abbigliata in pieno, ed era un ex carabiniere in pensione. No, i sugani, grazie. Come ci insegna a che cosa, vuoi andare a fare la bipì, si può andare a bagliare, mamma mia. E Teso no, Teso è furbo, va alla porta e ascolta, capito, ascolta. E così però non abbaia, capito? Se siete qualcosa che distrae. Questo abbaia esistentemente pure. Lui abbaia solo quando sente i cani fuori, abbaia, allora va fuori, si mette a abbaiare anche lui. E allora mi ha fatto pensare, perché dopo che mi ha creato mia figlia, ha detto, cazzo, io sto facendo questo servizio qua, rischio la vita, c'ho due bambini piccoli da portare avanti, la famiglia, eccetera, eccetera. Mi ho fatto un ragionamento, l'altro gli ho detto, lascio spazio ai giovani, io me ne vado, non te ne andare, dai, è una cosa che potrebbe succedere a tutti. Sì, ma il rischio è maggiore quando tu guidi in urgenza, quando tu fai l'urgenza il rischio aumenta, e quindi ho detto preferisco non rischiare più e non vederci più, non ci ho più andato. Ehi, hai fatto bene, tanto non ne vale la candela, ci hai rimesso di tasca pure, non solo d'altro, oltre a rimetterci quello che ci hai rimesso. Ci ho rimesso anche i soldi, capito? Perché mi sono dovuto pagare la malattia, me la sono dovuta pagare io, perché il CISO non me ne ha dato i soldi, li ha dati solo a Tanino perché non stava lavorando, stava studiando all'università, e gli ha dati i soldi per pagare l'avvocato, per fare questo, per fare l'altro, i soldi che hanno ottenuto, gliel'hanno dati, capito? A me invece non mi hanno dato un cafazzuffo, che mi ero fatto male, stavano sottovalutando il fatto che io non è che ci avevo di chissà che cosa, che sono due tesserie, questo e quell'altro, così, a piglia dire luce, e con tutto che da Roma ci avevamo l'assicurazione noi, capito, al CISO. Cioè eravamo assicurati da Roma, noi avevamo l'assicurazione dello smomo proprio.